Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, benvenuti. Oggi una puntata ricca di temi. Andiamo subito al nostro sommario, ma prima voglio ringraziare in regia Peter Bescafè, in redazione Laura Vanossi. Siamo pronti per partire, andiamo. Quando l'aorta si sfianca, parliamo di aneurisma addominale. Antibiotici solo quando servono. I rischi di un bambino in sovrappeso. Sì, oggi abbiamo pensato di parlare dell'aorta, che è l'arteria più grande e importante del nostro corpo. Per visualizzarla immaginiamo un fiume con tanto di emissari. Bene, può succedere che gli argini di questo fiume si sfianchino, condizione che li espone al rischio di rottura. Torniamo alla nostra aorta. Distribuite, pensate, milioni di litri di sangue nel corso della sua vita e quindi immaginiamo la pressione che viene esercitata sulle sue pareti, che possono indebolirsi e dilatarsi. Questa condizione patologica si chiama aneurisma. È un rischio davvero serio per la nostra salute, perché se l'aorta si rompe si rischia la vita. Ma direi che a complicare il quadro si aggiunge un altro elemento. Non ci sono segnali premonitori. In pratica la maggior parte delle persone che presentano un aneurisma dell'aorta ne sono assolutamente inconsapevoli. Insomma, la diagnosi spesso arriva come un fulmine a ciel sereno, ed è quello che è successo al signor Enrico, che è in linea con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Signor Enrico, cosa è successo? Come ha fatto a scoprirlo? È successo che io faccio i miei esami di routine, ma di solito non si va a fare questi particolari, no? Mi è capitato che un amico, un parente, eccetera, ha questo problema, addirittura uno ha perso la vita, eccetera. Allora comincio a fare gli esami. Sì. Naturalmente convinto che io non ho niente, io sono sano, io sto bene, eccetera. In un controllo di routine mi trovano proprio questo palloncino di quasi 5 centimetri che proprio ignoravo completamente, no? E vabbè, io mi sono un po' spaventato. Certo, un bel colpo. Ecco, diciamo che non è un diametro già pericoloso, per cui ho tempo di prepararmi e farmi l'intervento, no? Certo. E così è stato, senza allarmarmi, ho fatto i miei passi, ho preso il mio appuntamento, ho fatto il mio intervento, da cui proprio vengo rimesso oggi. Ecco, diciamo che la paura c'era. Sì. Ho fatto l'intervento mercoledì scorso, che era il giorno 12, e oggi che ne abbiamo 18 sto già uscendo. Torna a casa, ecco. Come si sente, signor Enrico? Bene, non sento nessun dolore, devo soltanto tenere un po' stretta la panciotta, perché è un po' abbondante, no? E con questo taglio, ecco, comunque sto bene, sto benone, e c'ho un allarme in meno. Sì, perché vivere con una sorta di bomba orologeria. Quella è una bomba, quando arriva basta, non c'è più niente da fare. Ciao Enrico. Ciao Enrico. Allora senta Enrico, la salutiamo anche noi e bentornato a casa. Festeggerà, grazie, immagino, oggi il suo ritorno. Sì. Lo festeggiamo anche noi, Enrico. Okay, okay, buona giornata. Grazie. Allora, questi sono i termini del problema che andiamo ad affrontare oggi. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Roberto Chiesa, primario dell'unità operativa di chirurgia vascolare dell'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele e anche direttore della cattedra e della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei. Senta professore, io con un po' di fantasia, non so se mi sono allargata troppo, ho paragonato l'aorta ad un fiume. Ma credo che valga la pena anche di localizzarlo, già che ci siamo. Ma il paragone è corretto, tutto sommato, perché l'aorta è questo grosso fiume che porta il sangue dal cuore a tutti gli organi. Quindi sicuramente è un fiume che porta milioni di litri durante la vita. E l'aorta prevalentemente è posizionata nel torace, vicino al cuore, e questa è la cosiddetta aorta toracica, che dà sangue a numerosi organi contenuti in torace, e poi al di sotto del diaframma, cioè nell'addome, si trasforma e diventa aorta addominale. È qua, in questo punto, che più frequentemente compare la malattia, cioè l'aorta tende a perdere le caratteristiche specifiche di parete, cioè si trasforma, diventa, smette di essere un tubo dritto che porta sangue e tende ad allargarsi. Si forma il cosiddetto aneurisma, cioè le pareti dell'aorta perdono la loro interezza, la loro forza, la loro capacità di contenere esattamente il sangue e iniziano a dilatarsi, a sfiancarsi. In parole ancora più scientifiche, si alternano le fibre elastiche contenute all'interno dell'aorta, vengono sostituite da altre fibre che non hanno capacità elastica, sì, quindi di allungarsi e di accorciarsi, e sotto la spinta della pressione, sotto l'impulso della gettata cardiaca, tendono lentamente a dilatarsi, formando un aneurisma. Professore, l'aterosclerosi, basta la parola, verrebbe da dire, è un nemico grande della nostra aorta, delle nostre arterie in generale. E parlando di aterosclerosi, ci viene subito in mente, visualizziamo delle placche che si attaccano alle pareti e le modificano, un po' come fa il calcare nelle tubature dei nostri impianti idraulici. È perfetto, l'immagine è perfetta. L'aterosclerosi è il vero nemico numero uno dell'uomo nella società moderna. Ormai uccide più l'aterosclerosi del tumore, e questo è sicuramente un dato estremamente importante e purtroppo è una malattia a cui tutti più o meno vanno sottoposti. L'aterosclerosi è una trasformazione, cioè una malattia per cui i vasi si trasformano, perdono elasticità e assumono una consistenza dura, fibrotica, in più si formano queste placche. Placche che sono rilievi all'interno della parete del vaso, costituiti da materiale grasso, colesterolo, cellule grasse, da materiale calcifico, calcio, da cellule morte, in più in cui si depositano molto spesso anche elementi del sangue e in cui il sangue può trombizzare. Capite? Formano un grave complesso patologico, certo, sulla parete del vaso. A seconda dell'ampiezza, del diametro della parete del vaso, la malattia sarà più o meno grave. Capite che un'aterosclerosi nella aorta viene sopportata per lunghi periodi, essendo l'aorta mediamente nell'uomo larga 2 cm o più. Aterosclerosi in una piccola arteria, come nella carotide, un'arteria del cervello, dà segni molto prima di sé, perché l'arteria è più piccola e quindi limita il flusso di sangue. Allora, se volete restare con noi, se volete seguire la trasmissione, intervenire se avete dei dubbi, se volete raccontarci la vostra esperienza, un po' come ha fatto Enrico, il nostro numero verde è a disposizione, 824 0024, ma soprattutto abbiamo a disposizione un grande esperto, il professor Roberto Chiesa, che è pronto a rispondere alle vostre domande. Naturalmente leggeremo anche i vostri messaggi. Il numero è 349 238 6666. Una mela al giorno. Antibiotici sì, ma con cautela. Questo è il messaggio della campagna di comunicazione realizzata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. L'obiettivo è informare sull'uso corretto degli antibiotici, e anche noi, come si dice, vogliamo fare la nostra parte, e lo facciamo proprio oggi, in occasione della Giornata Europea per l'uso corretto degli antibiotici. Ad aiutarci a capirne di più è in linea con noi il professor Guido Rasi, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei. Professore, abbiamo due dati su cui io vorrei che lei ci aiutasse un po' a riflettere. Da un lato, alcune molecole, secondo le ricerche effettuate proprio dall'AIFA, evidenziano un incremento molto forte dei consumi, si parla del 400%. Dall'altro, l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una ricerca, un sondaggio in cui emerge che l'Italia è davvero poco informata sull'uso di questi farmaci, di cui invece fa molto uso. Quindi ne usiamo tanti e ne sappiamo poco. È proprio così. Facciamo un uso un pochettino sconsiderato dei farmaci, degli antibiotici, in quanto non c'è una percezione chiara dell'esatta efficacia di questi farmaci. Per esempio, vengono usati incongruamente quasi sempre in presenza di infezione virale che, come si sa, il virus non risponde, non è sensibile all'antibiotico, non viene ucciso dall'antibiotico. Questa mancata diagnosi tra infezione batterica e infezione virale è una delle principali cause di uso inappropriato. L'altro aspetto è così, viene usato un po' come autoprescrizione, non si considera che tutto sommato l'antibiotico bisogna appunto di una diagnosi, ha una sua specificità di uso, non tutti gli antibiotici vanno per tutte le infezioni, e quindi c'è un po' una leggerezza autoprescrittiva senz'altro. Quindi professor Rasi, noi possiamo mandare questo messaggio che gli antibiotici vanno assunti solo sotto prescrizione medica e per il tempo suggerito dal medico, perché anche la terapia ha una sua durata. Spesso invece, quando vediamo che i sintomi, per una serie di ragioni, magari non per l'antibiotico si spengono, si risolvono, uno sospende l'antibiotico. Allora, diamo qualche regola di buona gestione dell'antibiotico, che poi spetta al medico, comunque li prendiamo, finiamo con prenderli noi. Certo, guardi, ha detto lei benissimo già. Ogni antibiotico ha una propria durata di terapia, al di sotto della quale ci si illude di guarire, in realtà si stanno salvando solo i germi più forti, più resistenti, che saranno quelli che daranno verosimilmente una recidiva o che sono quelli che genereranno una popolazione di germi cosiddetti antibiotico resistenti. La durata in genere va dai 5 agli 8 giorni, ci sono farmaci che ne presuppongono un po' di più e farmaci un po' di meno, e questo una volta di più ci fa dire che deve essere fatto sotto la guida attenta di un medico. Quando voi parlate, voi intendo medici, parlate di antibiotico resistenza, una parola che a noi fa molta paura, però in effetti non capiamo esattamente poi che cosa significa. Deriva sempre dall'uso sconsiderato e non opportuno, non adeguato degli antibiotici, e in quanto tempo si sviluppa? Ma in quanto tempo si sviluppa l'antibiotico resistenza non c'è una regola precisa. In realtà cosa succede? Che ogni germe tende ad avere delle mutazioni, queste mutazioni tendono a renderlo poi resistente alle molecole che cercano di ammazzarlo. È chiaro che è funzione lineare dell'uso, cioè più si usano e più si va verso l'antibiotico resistenza. Diciamo che l'antibiotico resistenza è naturale che si instauri, però mentre negli ultimi 20 anni la ricerca ha immesso con grande velocità nuove molecole in commercio, per cui ad ogni antibiotico non funziona più ce n'erano alternative, attualmente è aumentata la velocità in cui ci sono antibiotici che funzionano meno ed è diminuita la velocità di trovare nuove molecole adeguate. Esatto. Senta professore, però ci sono persone che anche se a basso dosaggio necessitano quotidianamente o per periodi molto lunghi di assumere antibiotici. Per queste persone il problema è un po' diverso, perché naturalmente sono seguite dai medici e quindi che sanno esattamente il tipo di antibiotico da utilizzare per il tempo utile, nel caso quando sostituirlo. Assolutamente sì, sono condizioni assolutamente particolari, gestite in genere da una programmazione del medico, possono essere usati per mesi e cambiati regolarmente quando il medico, ma cioè, non è questo che genera il grosso problema dell'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza è l'uso quotidiano incongruo di pochi giorni in grandi numeri di popolazione. Stiamo parlando di due situazioni molto diverse, no, non c'è preoccupazione per quello. Grazie, io la ringrazio davvero professor Rasi. Comunque invito i nostri ascoltatori, se volessero saperne di più, di consultare il sito antibioticoresponsabile.it, oppure potete chiamare il numero verde dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, 857 16 61. Professore, io la ringrazio, buona giornata. Grazie a lei. E buon lavoro. Buona giornata a voi. Grazie. Grazie ascoltatori, arrivederci. Pronto soccorso. E noi riprendiamo il tema del giorno, parliamo di aneurisma aortico-addominale. In linea con noi abbiamo il professor Roberto Chiesa. Professore, abbiamo capito che nemico della nostra arteria e della aorta in particolare è l'aterosclerosi. Ci sono dei soggetti più a rischio di altri? Ma certo, ci sono soggetti che purtroppo hanno più tendenza ad avere aterosclerosi. Sicuramente c'è qualcosa di ereditarietà, qualcosa viene passato dai genitori, e direi questo rappresenta un qualcosa di molto importante. Chi nella propria famiglia ha pazienti ammalati o deceduti per malattie cardiovascolari sicuramente ha un rischio superiore rispetto a un paziente, rispetto a un'altra persona che non ha una storia di questo tipo. Poi esistono fattori di rischio che dipendono da noi e questi sono soprattutto lo stile di vita. Lo stile di vita è fondamentale, una vita senza attività fisica, una vita senza movimento, una vita con abusi alimentari, una vita con stress e soprattutto, infine, una vita da fumatore sicuramente crea grossissimi fattori di rischio per tutte quelle che sono le malattie cardiovascolari ed in particolare per l'aneurisma. Quindi Io credo quindi che... però professore, la buona notizia è che modificando il nostro stile di vita possiamo effettuare una sorta di protezione per la, certo, per la salute della nostra arteria, certo, tanto per volgerla in positivo. Certo, è molto importante volgere in positivo il tutto. Questi sono gli elementi negativi, però conoscendo gli elementi negativi noi possiamo ovviamente volgerli, renderli in positivo. Basta poco per camminare 40-50 minuti al giorno, basta poco per perdere 5, 6, 8, 10 kg di peso in un tempo ragionevole, e basta di più, ma si guadagna di più smettendo di fumare. Quindi certo, capisce, sono tutte uomo elementi... avvisato in questo caso si può dire veramente mezzo salvato. Certo. Professore, il problema è che, e l'abbiamo anticipato, anche Enrico ce l'ha raccontato, chi ne soffre spesso non lo sa e lo scopre per caso. Ma è possibile? Non ci sono segnali, che so, un mal di schiena, mal di pancia? Qualcosina potrebbe in qualche modo insospettirci? Purtroppo questa è una malattia insidiosa. E come il nostro amico ce l'ha detto, nella maggior parte dei pazienti la malattia viene scoperta facendo esami per altri motivi o esami di screening. L'aneurisma è una malattia insidiosa che si fa luogo lentamente nell'addome, parliamo di aneurisma dell'aorta addominale, trovando spazio tra i visceri e spesso non dando dolori. Talora, quando le dimensioni iniziano ad essere ragguardevoli, cioè possono superare i 5, i 6 centimetri, ci possono essere dolori, possono esserci dolori posteriori alla colonna, legati al fatto che l'aneurisma pulsa contro la colonna, ci possono essere talora dolori addominali diffusi e qualche segno che può indurre a un medico intelligente, ed ecco qua quanto è importante il discorso del medico di base, del medico di famiglia, che deve essere assolutamente sempre informato della nostra situazione, per cominciare a ragionare su queste possibilità. Sentiamo che cosa ci racconta Gianfranco, che ci chiama da Pescara, all'824 0024. Gianfranco, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, è un po' confortante perché saluto intanto il professore e avete parzialmente già risposto alla mia domanda, perché appunto... Ma il professor Chiesa questo è avanti, come si dice. Esatto, volevo proprio chiedere se ci sono dei sintomi che possono, come dire, far accendere un campanello di allarme e che cosa dire, visto che io la mia età è di 47 anni, come dire, coinvolgere il medico curante in uno screening, se è necessario farlo, insomma, a prescindere. Senta, ma Gianfranco, lei, mi scusi Gianfranco, ma lei ha detto 47 anni come se fosse chissà quale età, ma lei si ritrova un po' nel libro nero che ha descritto il professor Chiesa, quindi sedentario, stressato, sovrappeso? Mi sono ravveduto 10 anni fa, per cui dovrei esserne fuori. Mm. Però è vero è che io in vita mia, avendo sempre goduto di buona salute, non certo, ho mai fatto nessun tipo di controllo. Quindi, professore, ecco, la mia domanda era solo questa. Grazie. Se vale la pena, il caso di necessario farlo, finché non c'è nessun problema, voglio dire, certo, si può tirare avanti così. Bella domanda, professor Grazie Chiesa. Grazie, signor Gianfranco, della sua domanda, perché questa è una domanda che apre moltissimi discorsi. Innanzitutto, sul caso specifico, se lei non ha una familiarità particolare per malattie cardiovascolari, essendosi lei ravveduto, io credo che lei possa stare ragionevolmente tranquillo. Al suo posto io chiederei al suo medico, tra 3 anni e 50 anni, di farle fare un controllo ecografico dei principali vasi del corpo, dell'addome, delle carotidi, degli arti inferiori, in modo da poter visualizzare la situazione e mettersi tranquillo o allarmarsi se esiste qualcosa di patologico. E questo è il primo meccanismo, diciamo, che noi possiamo attuare in una situazione come la sua. Secondo punto, se lei è asintomatico, può, direi con buona tranquillità, continuare a pensare di esserlo. Un altro dato importante è il controllo della pressione. Se la sua pressione arteriosa è nella norma, io credo questo sia un'altra buonissima ragione per essere tranquillo per la presenza o meno di malattie cardiovascolari. Ad ogni modo, lei ha toccato un punto veramente interessante, il discorso dello screening in Italia. Purtroppo il discorso dello screening non viene fatto ancora a tappeto, perlomeno per le malattie cardiovascolari. È questo che come società, come gruppi, come chirurghi singoli, stiamo spingendo moltissimo perché venga instaurato anche in Italia un discorso di screening sulle malattie cardiovascolari. Questo, io credo, salverebbe migliaia e migliaia di vite ogni anno. Professore, lei ha suggerito a Gianfranco di farsi fare un controllino intorno ai 50 anni. Per le persone invece che hanno familiarità oppure sono soggetti quindi più a rischio di altri, è meglio anticipare questo controllo? Ma io abbasserei di 5 anni. 45. Sì, se non ci sono sintomi particolari, 45 anni credo che sia un'età ragionevole. Per fare questo controllo ecografico dei certo. principali vasi. Siamo tornati insieme, oggi ci occupiamo della aorta, in linea con noi abbiamo il professor Roberto Chiesa, ma prima di continuare ad affrontare questo tema andiamo a sentire le ultime notizie che ci arrivano dal mondo della scienza e della medicina, che sono commentate oggi per noi dal professor Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. I bambini obesi rischiano grosso per la loro salute. I bambini obesi a 10 anni hanno delle arterie paragonabili a quelle di uomini di 45 e hanno alterazioni del cuore che li espone al rischio di malattie. Lo studio è stato condotto a Kansas City con un semplice strumento non invasivo, i dottori lo chiamano Doppler delle arterie, che misura lo spessore delle pareti dei vasi arteriosi del collo. I bambini obesi avevano uno spessore delle pareti dei vasi simili a quello di adulti di 45 anni. Il dottor Ayer dell'Università di Sydney ha invece studiato lo spessore del ventricolo sinistro del cuore di bambini obesi con un altro strumento non invasivo, si chiama ecografia del cuore. Ayer ha scoperto che i bambini obesi avevano in media un cuore più grande di quello dei bambini non obesi. Infine, un altro studio condotto da ricercatori di Canberra, sempre con l'ecografia del cuore, ha dimostrato che il cuore dei bambini obesi non si rilassa in modo normale tra una pulsazione e l'altra, cioè rimane più rigido. Insomma, un cardiologo di New York specializzato nella prevenzione delle malattie del cuore conclude che l'obesità nei bambini non è semplicemente un problema estetico, ma una vera emergenza per la salute. Chi mangia piano resta sano, la ricerca lo conferma. Mangiare in fretta e fino alla sazietà aumenta fino a 3 volte il rischio di diventare obesi. Lo afferma uno studio condotto in Giappone e pubblicato da poco sul British Medical Journal. I ricercatori hanno osservato le abitudini alimentari di 1100 uomini e più di 2000 donne adulte, contando quanti mangiavano molto rapidamente e quanti invece lo facevano in modo più lento. I ricercatori hanno osservato che le persone che mangiano molto in fretta e che arrivano alla sazietà hanno in media un indice di massa corporea superiore rispetto alle persone che mangiano più lentamente e a quelle addirittura che si alzano dalla tavola non proprio del tutto sazi. Mangiare in fretta e fino alla sazietà comporta l'ingerire molte più calorie. L'insegnamento che ne deriva è semplice: bisogna mangiare piano e un po' di meno. Aneurisma addominale, spesso la diagnosi arriva come un fulmine a ciel sereno. Ne parliamo oggi con il professor Roberto Chiesa, che ci aiuta a rispondere anche a tutti i vostri dubbi e soprattutto a darvi delle indicazioni preziose. Professore, arriva la diagnosi. Lei ha detto che specie l'aneurisma nella parte addominale è più rischioso, più pericoloso di quello invece toracico? No, ho detto che è più frequente l'aneurisma. Nella ma parte dei due qual è il più rischioso? Ma è difficile dire qual è il più rischioso, sono ambe due ad alto rischio, dipende dalle dimensioni dell'aneurisma. Quindi non è tanto la posizione quanto le dimensioni. Certo. Quando inizia a diventare, quando ci sono queste dimensioni, allora, le dimensioni diventano pericolose? Per l'aorta addominale vengono considerate dimensioni a rischio 4 centimetri, 4 centimetri e mezzo. A questo punto il paziente e il medico soprattutto devono cominciare a considerare il momento ideale per trattare il paziente. A livello dell'aorta toracica, sì, cioè l'aneurisma dell'aorta in torace, di solito un centimetro e mezzo di più. Comincia a diventare a rischio di rottura un aneurisma attorno ai 6 centimetri. Ai 6 centimetri. Tanto questo per avere un po' le dimensioni del problema. Andiamo a Bari, ci aspetta Anna. Buongiorno signora. Buongiorno. Deve abbassare un po' la radio perché sennò c'è il rimbombo. Sì, abbiamo spegniamo la radio. Sì. Sì. Ecco, senta, io ho ascoltato attentamente e mi sono non mi ritrovo molto in quello che è stato detto. In che senso? Io intanto ho una mamma che è morta di aneurisma della aorta, c'è il rimbombo anche nel mio telefono, non sento molto bene. Comunque mia mamma è morta di aneurisma della aorta toracica, sì, all'età di 82 anni, e io ho 65 anni e sto facendo solo degli accertamenti per quanto riguarda l'aneurisma addominale. Sì. C'è questo che non mi ritrovo. Io cammino moltissimo e faccio molto sport. Sì. Nell'alimentazione, un'alimentazione al 100% cerco almeno. Sì, sta molto attenta. Grazie, eccetera, eccetera. Però? Intanto volevo sapere che probabilità ho io di sviluppare un aneurisma, data la familiarità. E se devo far fare dei controlli anche ai miei fratelli, chiaramente, e anche a mio figlio. Certo. Professor Chiesa. La signora non ci ha detto come ha la pressione arteriosa, che è un dato molto importante questo. Anna, la pressione. Dopo la menopausa, e sui 100, prendo una pastiglia, il Nebilox, sì. La pressione si aggira in certi momenti sui 140, 80, 75 di mila, però in alcuni momenti la pressione è alta. Quindi non è completamente controllata, ecco, è quindi un po' ballerina. Quindi la signora è una signora che si potrebbe definire con una pressione borderline, capisce? Cioè a livello massimo accettabile. Quindi io credo che valga la pena, con una familiarità come quella che ci ha appena denunciato, di eseguire un controllo anche dell'aorta toracica. Per eseguire un controllo dell'aorta toracica è necessario effettuare un esame più approfondito, che è un attacco del torace, ci permette, considerata l'età della paziente non più giovanissima, di avere un quadro preciso su tutta la situazione dell'aorta ascendente, dell'arco dell'aorta, dell'aorta discendente, dei polmoni e dei vasi in torace. Quindi io credo che sarebbe consigliabile a una signora con questa storia e questa situazione effettuare un attacco torace di controllo. Per quanto attiene poi ai figli, dipende dall'età dei figli. Io credo che possiamo tranquillamente farli rientrare in quegli screening di base che abbiamo detto: familiarità, inizio controllo a 45 anni, non familiarità, 50 anni, per uno studio dell'aorta addominale. Se vogliamo approfondire lo studio per l'aorta toracica, oggi abbiamo l'TAC. Andiamo a Milano, anzi stiamo a Milano, ci chiama Emilio, 824 0024. Emilio, buongiorno. Buongiorno. Glielo chiedo già subito, perché poi glielo chiede il professor Chiesa, lei si ricorda i valori della sua pressione? Dunque, a livello analitico no, però diciamo in linea di massimo la pressione, diciamo, sui livelli bassi, insomma, come si dice, avere la pressione bassa è meglio avere la pressione alta per quanto riguarda il detto comune. Io ho 52 anni e segnalo che mio papà è morto recentemente, aveva 91 anni per una serie di patologie, però è stato anche lui soggetto a triplice bypass, ultimamente aveva una aorta completamente chiusa e poi poverete è morto. Comunque io ho fatto un esame e risulta che il mio cuore, diciamo, funziona bene, però hanno diagnosticato, hanno visto in questo screening che ho effettuato, sì? Che ho praticamente un'impurità sistole aortica, adesso non so esattamente, adesso lo dico così a memoria. Sì. Segnalo inoltre che io, diciamo, adesso non lavoro più. Sono stato soggetto purtroppo a delle tematiche di mobbing, per cui ho dovuto acquisire dose massicce di psicofarmaci, ho avuto degli stress e ce li ho ancora adesso. Molto forti. Ecco, esatto. Grazie Emilio. Mi sembra che il professor Chiesa abbia tutti gli elementi per darle un'indicazione. Professore. Ma il problema del signor Emilio mi sembra che più che un problema da addurre all'aorta, cioè all'aneurisma dell'aorta, sia un problema più cardiologico. Ha un problema, mi ha detto, di impurità così in senso generico, quindi probabilmente è un soffio riferibile alla aorta, probabilmente alla valvola aortica. Quindi io credo che sia fondamentale in un quadro di questo come tipo, quello del signor Emilio, rivolgersi a uno specialista cardiologo, effettuare uno studio incruento, un eco del cuore e da qui partire per capire realmente com'è la situazione. Credo che questo sia molto importante per lui. Professore, abbiamo parlato di dimensioni. del aneurisma aortico e di quello toracico. Ma se è piccolo questo aneurisma, basta tenerlo sotto controllo, non si rischia, o in teoria anche quelli piccoli si possono rompere e quindi costarci la vita? Guardi, un aneurisma sotto i 4 centimetri viene considerato un aneurisma piccolo. Quindi in linea teorica è corretto effettuare uno screening annuale di controllo dell'aneurisma. Sì. Abbiamo, come ho già ripetuto, l'ecografia che ci permette di valutare temporalmente con un mezzo incruento, perché non si ricevono raggi, è un'ecografia fatta con ultrasuoni, si possono seguire perfettamente l'evoluzione nel tempo dell'aneurisma. Le statistiche ci dicono che è raro che si rompa un aneurisma piccolo dell'aorta addominale. Tuttavia è esperienza comune di tutti noi avere osservato aneurismi piccoli rotti. Quindi il messaggio per la popolazione è calma, tranquillità con un aneurisma piccolo, però controllo preciso. Controllo, e bisogna anche rimettere un po' a posto lo stile di vita, immagino, professor Chiesa. Beh, certo, l'abbiamo detto, lo stile di vita è fondamentale, abbassare la pressione, svolgere attività fisica continuativa e un buon periodo di tempo per la giornata, perdere peso, il fumo, il sale, tutti questi elementi che ci permettono di rientrare in linee di vita compatibili con il miglioramento della nostra situazione cardiovascolare. Ecco, ci siamo tornati e in linea con noi c'è Francesco che ci chiama da Roma. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Siete veramente forti, lei, il suo cast e i suoi ospiti. Grazie Francesco. Grazie. Senta, posso passare alla domanda? Certo. Dunque, io ho 76 anni e circa una trentina d'anni fa mi è stata diagnosticata un'ectasia aortica del tratto toracico. Sì. È abbastanza notevole, la vedo anch'io sulle lastre, è bella grossetta. Adesso io volevo sapere, se possibile, la differenza che esiste fra ectasia e aneurisma, e che rischi comporta l'ectasia e che provvedimenti devo attuare. Sintomi, mai niente. Sintomi, mai niente. Grazie Francesco. Ascolterei per telefono, sì. Per radio. Per radio, fa bene. Grazie Francesco. Professor Chiesa. Simpaticissimo Francesco da Roma. Sì, anche perché se ci fai complimenti. Senta, allora, differenza specifica tra ectasia e aneurisma dipende dalle dimensioni. Ectasia si considera un allargamento del diametro della parete aortica senza che essa sia diventata aneurisma, cioè nell'arco dell'aorta, ad esempio, 2,5 cm, 3 cm vengono considerati ectasia, dilatazione, sì. Capisce? 4 cm, 4,5 cm vengono considerati aneurisma. In altre parole, in un'ectasia le pareti dell'aorta nella loro interezza sono ancora conservate, cioè sì. Le strutture parietali sono ancora valide. Nell'aneurisma le strutture di parete, e indico soprattutto il tessuto elastico, sono alterate. Quindi la differenza è solo nel diametro. Solo nel diametro. Un'ectasia abitualmente non provoca problemi. Il problema che può comparire nell'ectasia è una deposizione minima di trombo sulle pareti dell'arteria. Allora che cosa si deve fare? Assolutamente non chirurgia per l'ectasia, ma usare una terapia antiaggregante, cioè farmaci che permettano di mantenere il sangue più fluido, cioè meno in grado di aderire alle pareti. In poche parole, aspirina o simili. Bene, quindi insomma un buon messaggio per Francesco. Lui certo. Ha fatto una bella domanda, è stato simpatico, una risposta assolutamente tranquillizzante. E andiamo a Loano, ci aspetta Domenico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Domenico. Buongiorno professore. Senti, intanto faccio anche i complimenti perché sì. Siete veramente esaurienti e spiegate molto bene. Dunque, io la risposta arriva anche senza complimenti, Domenico, sì, no, volevo precisarlo perché è vero professor Chiesa. No, ma prima ritardo. No, grazie. Ritardo. Domenico, venga la sua domanda in modo un po' conciso, allora, che ci aspetta anche Rosolino. Sì, io da oltre dieci anni soffro di una appunto ectasia oppure aneurisma, come dice il professor, della aorta. Misura 5 cm di diametro. Sì. È stabile nel tempo. Ogni 6-7 mesi faccio controlli con l'ecografia e con l'attacco. Sì. Recentemente ho fatto un attacco e il risultato invece è una dilatazione 5,5. Ecco, però dopo un 15-20 giorni ho voluto controllare con una angiorisonanza magnetica, sì, che mi ha confermato 48-50 massimo. Mm. Ecco, io allora lei dice come mai queste, queste discordanze di misurazione? Mm. Ecco, e soprattutto se i provvedimenti da prendere, se posso resistere, sì, ancora dopo 10 anni, ancora se ne dura senza operarmi, mm, o... Tenere dura senza operarmi. Grazie, grazie Domenico. Professor Chiesa, così allora, approfittiamo. Allora, molto, sì, rapidamente, le discordanze tra i risultati di una tecnica o l'altra possono dipendere dall'operatore. Mm. Chiaro, quindi sono discordanze minime, ma possono dipendere dall'operatore, possono dipendere dalla modalità con cui è eseguito l'esame. Sì. Il discorso è che un aneurisma di 5 cm controllato dopo 10 anni comincia a diventare un aneurisma che va considerato per il trattamento chirurgico. Sì. La mia esperienza dice che dopo 10 anni di aneurisma di 5 cm, effettivamente bisogna iniziare a pensare a un approccio chirurgico. Bisogna valutare alcuni parametri che purtroppo non ho in questo momento relativi al paziente. Sono la situazione generale del paziente, la situazione cardiaca del paziente, mm, e localmente nell'aneurisma come sono le pareti dell'aneurisma, se c'è trombo nell'aneurisma, se c'è inizio di fissurazione del trombo, se, certo, ci sono segni di inizio di diminuzione di consistenza, di forza della parete dell'aneurisma, capisce? Io quindi bisogno di tanti elementi per prendere una decisione. Di elementi per prendere una decisione. Ad ogni modo, un aneurisma di 5 cm, il messaggio che dobbiamo passare, sì, ai nostri ascoltatori, al nostro paziente, deve iniziare a essere considerato per il trattamento chirurgico. Professore, a proposito di trattamento chirurgico, l'intervento tradizionale è, a volte viene sostituito da quello per via endoscopica, quindi due approcci diversi. Immagino che ci siano delle indicazioni precise per l'uno o per l'altro o no? Certo. Allora, noi abbiamo due grandi opzioni. Sì. Il trattamento tradizionale, che è un trattamento iniziato negli anni 50 e che ci ha dato dei risultati meravigliosi. Il trattamento tradizionale consiste in un intervento chirurgico, l'apertura dell'addome, nell'apertura dell'aneurisma, nel posizionamento di una protesi all'interno dell'aneurisma, in modo da escludere completamente l'aneurisma dal resto della circolazione. Sì. È un intervento che ci ha dato risultati meravigliosi, moltissimi pazienti, esistono centinaia di migliaia di pazienti operati in questo modo. Negli ultimi 10 anni, 15 anni, è stata introdotta questa nuova metodica che prende il nome di trattamento per via endovascolare, per cui si sale da una grossa arteria, che può essere l'arteria femorale o l'arteria iliaca, si posiziona una protesi all'interno dell'aneurisma, questa protesi viene aperta e blocca, esclude completamente l'aneurisma dal resto del circolo. È sicuramente una metodica meno traumatica, sì, dell'intervento tradizionale, perché non si apre l'addome, tuttavia ha alcune limitazioni. Limitazioni anatomiche. Sì. Io non posso, ad esempio, con questa metodica portare l'endoprotesi troppo a ridosso, troppo vicino alle arterie renali, perché rischio di chiudere le arterie renali, hai capito il grave danno, certo, che faccio al malato. Talora l'aneurisma ha le arterie iliache, che sono quelle che ci permettono di arrivare all'aneurisma, troppo tortuose, con troppe curve, per cui non riesco a risalire, capite, con l'endoprotesi. Altre volte l'aneurisma è troppo grande, per cui l'endoprotesi non si muove, sì, cioè mantiene un movimento curvilineo S all'interno della protesi, per cui non riesce a chiudere, a bloccare bene il sangue all'interno dell'aneurisma. Quindi le due metodiche sono assolutamente valide. Le due metodiche hanno però indicazioni ben precise. Ben precise. Ad esempio, in una persona giovane con, sì, un'aspettanza di vita, un uomo di 60 anni con un'aspettanza di vita di 25-30 anni, io sicuramente opto per un intervento aperto, che è un intervento che sicuramente mi dà delle possibilità di vita, anche per le esperienze, anche per le casistiche che esistono, una lunga e sicura prospettiva di vita. Professor Chiesa, io la saluto e la ringrazio per la sua chiarezza, per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. La ringrazio, a presto. Grazie, a presto, buona giornata anche a lei, buona giornata a voi, ci sentiamo domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.